Terzo anello ad alta voce. Lord Jim di Joseph Conrad. Immagino che nessuno di voi abbia mai sentito parlare di Patusan, riprese Marlo dopo un silenzio occupato dall'attenta accensione di un sigaro. Non importa. Ci sono molti corpi celesti fra le infinite stelle del firmamento notturno che la gente non ha mai sentito nominare, perché sono fuori dall'ambito delle attività umane e non interessano a nessuno se non agli astronomi, i quali sono pagati per parlare dottamente della loro composizione, del loro peso, della loro traiettoria, nonché dell'irregolarità della loro condotta e delle aberrazioni della loro luce, in una sorta di pettegolezzo scientifico. Lo stesso era per Patusan. Se ne discuteva con attenzione nei circoli governativi di Batavia, soprattutto per le sue irregolarità e aberrazioni, e il suo nome era noto a poche persone, molto poche, degli ambienti commerciali. Peraltro, non c'era mai stato nessuno, e sospetto che nessuno, desiderasse andarci personalmente, proprio come immagino che un astronomo si opporrebbe decisamente alla prospettiva di essere trasportato su un remoto corpo celeste, dove, senza più il conforto dei suoi emolumenti terreni, contemplerebbe perplesso quei cieli sconosciuti. Comunque, non c'è alcun rapporto fra i corpi celesti o l'astronomia e Patusan. Fu qui che andò Jim. Volevo solo farvi capire che se Stein avesse fatto in modo di mandarlo su una stella di quinta grandezza, il cambiamento non sarebbe stato più grande. Lasciò dietro di sé le sue debolezze terrene e la dubbia reputazione che aveva e trovò condizioni del tutto nuove, terreno fertile per la sua fantasia, assolutamente nuove, assolutamente eccezionali. Ed egli vi si adattò con una prontezza straordinaria. Fu durante la colazione, la mattina successiva alla nostra conversazione su Jim, che egli menzionò questo posto dopo che io ebbi citato la frase di Brierly. «Se ne vada 7 metri sottoterra e ci resti». Mi guardò con un'attenzione piena di interesse, come se fossi stato un insetto raro. «Si può fare anche questo», osservò sorseggiando il caffè. «Seppellirlo in un certo senso, certo», commentai. «Non lo si vorrebbe fare, ma sarebbe la cosa migliore considerando quello che è». «Sì, è giovane», riflette Stein. «L'adulto più giovane di tutto il mondo», dichiarai. «Shen, c'è Patusan», proseguì lui con la stessa aria meditativa. «E adesso la donna è morta», aggiunse in tono sibillino. «Naturalmente non conosco la storia. Posso solo immaginare che nel passato Patusan fosse stata usata per seppellirvi qualche peccato, trasgressione o disgrazia. Chi fosse la donna a cui accennò a proposito di Patusan non lo so, ma dalle sue allusioni capii che era stata una bella e colta ragazza malese olandese, con una storia tragica o forse solo triste, il cui episodio più doloroso era stato senza dubbio il matrimonio con un portoghese della Malacca impiegato in qualche casa commerciale nelle colonie olandesi. Da ciò che Stein mi accennò conclusi che quest'uomo era una persona insoddisfacente e persino sgradevole per molti versi, tutti più o meno vaghi e offensivi. Era stato solo per sua moglie che Stein l'aveva nominato direttore della stazione commerciale della Stein & Company a Patusan. Ma dal punto di vista economico quell'iniziativa non era un successo, almeno per la ditta. E ora che la donna era morta, Stein era pronto a provare con un altro agente. Il portoghese, che si chiamava Cornelius, si considerava di gran valore ed incompreso e pensava che le sue qualità gli dessero diritto ad un posto migliore. Era lui l'uomo che Jim avrebbe dovuto sostituire. «Ma non penso che abbandonerà il luogo», osservò Stein. «Questo non mi riguarda, è stato solo per la donna che io... Ma siccome penso che gli sia rimasta una figlia, se vorrà restare gli permetterò di tenere la vecchia casa». Patusan è il nome di una remota provincia in uno stato indigeno indipendente della sua città principale. In un punto del fiume, a circa 40 miglia dal mare, dove sono visibili le prime case, si possono notare al di sopra della foresta le cime di due ripide colline molto accostate fra loro, separate da quella che sembra una profonda fenditura, quasi una frattura provocata da un colpo violento. Di fatto, la valle sottostante non è altro che uno stretto dirupo. Dal paese le due alture hanno l'aspetto di un cono irregolare spaccato in due metà, leggermente staccate fra loro. Nel terzo giorno di plenilunio, stando nello spazio aperto davanti all'abitazione di Jim, quando andai a trovarlo aveva una bella casa in stile locale, la luna sorgeva proprio dietro le due colline, che alla sua luce diffusa si trasformavano in una massa di nero intenso. Quindi il suo disco quasi perfetto, dallo splendore rossastro, scivolava in alto fra le pareti del burrone fino a librarsi in cielo, allontanandosi dalle due cime come se celebrasse con un discreto trionfo la fuga da un sepolcro scoperchiato. «Un effetto meraviglioso», disse Jim, che era al mio fianco. «Valeva la pena vederlo, vero?» Mi fece questa domanda, con una nota di orgoglio personale, che mi fece sorridere, come se avesse messo mano anche lui nella preparazione di quello spettacolo unico. Erano tante le cose che aveva messo a posto a Patusan, ed erano cose che sarebbero parse fuori dalla sua possibilità di intervento, non meno dei moti della luna e delle stelle. Era incredibile, e pensare che Stein ed io lo avevamo mandato lì, proprio lì, quasi senza saperlo, senz'altro fine che quello di allontanarlo dal mondo, dal suo mondo, ben inteso. Quello era il nostro scopo principale, benché, devo ammetterlo, forse io ero stato spinto anche da un altro motivo. Ero in procinto di tornare in patria per un certo tempo, e probabilmente più di quanto io stesso non ne avessi la consapevolezza, desideravo sistemarlo, capite, prima di partire. Tornavo in patria, ed era proprio da lì che era arrivato fino a me, con il suo miserabile guaio e le sue confuse pretese, come un uomo che ansimi sotto un fardello in mezzo alla nebbia. Non posso dire di averlo mai conosciuto a fondo, neppure oggi, quando so che non lo vedrò più. Ma mi sembrava che meno lo capivo, più ero legato a lui nel nome di quel dubbio, che è l'elemento inseparabile da ogni nostra conoscenza. Ciò che contava erano i suoi sentimenti. Non sarebbe più tornato a casa. No, mai. Se fosse stato capace di manifestazioni pittoresche, sarebbe rabbrividito quel pensiero e avrebbe fatto rabbrividire anche gli altri. Ma non era un uomo di tal fatta, sebbene a modo suo fosse dotato di grandi capacità espressive. Di fronte all'idea di tornare in patria, diventava tremendamente rigido e immobile, con il mento chino e le labbra imbronciate, mentre sotto la fronte aggrottata, quei suoi occhi di un azzurro chiarissimo mandavano lampi, come se avesse avuto davanti a sé qualcosa di intollerabile, qualcosa di ripugnante. C'era immaginazione in quella sua testa dura, che le fitte ciocche dei capelli avvolgevano come un coprecapo. Quanto a me, sono privo di immaginazione. Se ne avessi oggi avrei più certezze su di lui, e non voglio far credere che mi raffigurassi lo spirito della nazione levarsi sulle bianche scogliere di Dover per chiedermi che cosa io, che per così dire tornavo senza ossa rotte, avessi fatto del mio giovanissimo fratello. Non avrei mai commesso un simile errore. Sapevo benissimo che egli era uno di coloro sui quali non si fanno domande. Avevo visto uomini migliori uscire di scena, sparire, svanire, completamente, senza provocare una sola parola di curiosità o di dolore. Come i padroni di grandi imprese commerciali, lo spirito della nazione non si cura delle innumerevoli vite individuali. Guai a chi rimane indietro. Noi esistiamo solo finché restiamo uniti. In un certo senso, Jim era rimasto indietro. Non era restato con gli altri, ma ne era consapevole, con un'intensità che lo rendeva toccante, proprio come la vita più intensa dell'uomo rende la sua morte più toccante di quella di un albero. Persino Stein riuscì a dire solamente che era un romantico. Io sapevo solo che era uno di noi. La conquista dell'amore, dell'onore, della fiducia degli uomini, l'orgoglio che tutto ciò dà, il potere che conferisce, sono materia per una narrazione epica, ma le nostre menti sono colpite dall'esteriorità dei successi umani, mentre nei successi di Jim non c'erano fatti esteriori. 30 miglia di foresta li escludevano dalla vista di un mondo indifferente e il rumore delle bianche onde che si infrangevano sulla costa sopraffaceva la voce della fama. A un centinaio di miglia a nord di Patusan, la corrente della civiltà, come divisa da un promontorio, si separa in due flussi diretti ad est e a sud-est, lasciando nell'isolamento e nell'abbandono le sue pianure e le sue vallate, i suoi alberi secolari e i suoi uomini antichi, come un'isoletta fragile e insignificante fra i due bracci di un fiume possente e distruttore. Il nome del paese si trova abbastanza spesso nelle vecchie raccolte di viaggi. I mercanti del XVII secolo ci andavano per il pepe, perché il pepe sembrava ardere come una passione amorosa nel petto degli avventurieri olandesi e inglesi all'epoca di Giacomo I. A Patusan avevano trovato una grande quantità di pepe ed erano rimasti impressionati dalla magnificenza e dalla saggezza del sultano, ma per qualche motivo, dopo un secolo di variegati rapporti, il paese era sembrato uscire a poco dall'attività commerciale. Forse il pepe si era esaurito. Comunque siano andate le cose, nessuno se ne preoccupa più ormai. La gloria è svanita e il sultano è un giovane deficiente con due pollici alla mano sinistra, le cui rendite magre e incerte, estorte a una popolazione di pezzenti, gli vengono a sua volta sottratte dai suoi molti zii. Naturalmente ebbi tutte queste informazioni da Stein. Egli mi diede i nomi di costoro e un breve resoconto della vita e del carattere di ognuno. Sugli stati del sud egli possedeva non meno dati di quanti potrebbe contenerne un rapporto ufficiale, ma naturalmente li esponeva in un modo molto più divertente. A Patusan c'erano gruppi in conflitto fra loro, uno dei quali capeggiato da Rajah Allang, il peggiore fra gli zii del sultano, signore del fiume, che angariava la popolazione malese con estorsioni e ruberie, riducendola al limite dell'estinzione. Costoro, privi di qualsiasi possibilità di difendersi, non avevano neppure la risorsa dell'immigrazione. E in realtà, come osservò Stein, dove mai potevano andare e come potevano scappare? Non c'è dubbio che non lo desiderassero nemmeno. Il mondo, che è circondato da alte e insuperabili montagne, è stato dato a coloro che sono di nascita nobile, e quello era il Rajah che gli indigeni conoscevano. Apparteneva alla loro famiglia reale. Più tardi ebbe il piacere di incontrare questo gentiluomo. Era un uomo piccolo, esausto e sudicio, con occhi malvagi e una bocca tremante, che inghiottiva una pillola d'oppio ogni 2 ore, con capelli che in spregio della comune decenza teneva sempre scoperti e che cadevano in ricci disordinati e aggrovigliati attorno alla faccia sporca e grinzosa. Quando dava udienza si appollaiava su una sorta di stretto palco eretto in una sala che assomigliava a un granaio in rovina, con un pavimento di bambù marcito, attraverso le cui crepe si potevano vedere 4 o 5 metri più in basso i mucchi di rifiuti e di spazzatura sparsi sotto la casa. Questo fu il luogo e il modo in cui egli ci ricevette, quando, accompagnato da Jim, gli feci una visita ufficiale. Non avevo mai visto Jim con un aspetto così grave, così controllato, con modi così solenni e impenetrabili. In mezzo a questi uomini dal volto scuro, la sua figura possente avvolta in un abito bianco e le splendenti ciocche dei suoi capelli biondi sembravano attirare tutti i raggi del sole, che penetrava attraverso le fessure delle imposte chiuse di quella buia sala, con i tappeti ai muri e il tetto di paglia. Appariva come una creatura diversa, non solo nella forma, ma anche nella sostanza. Se non l'avessero visto arrivare a bordo di una canoa, avrebbero potuto pensare che era disceso fino a loro dalle nuvole. Era invece giunto su una folle imbarcazione indigena, seduto, immobile, con le ginocchia piegate per paura di rovesciarla, su un baule di metallo che gli avevo prestato, tenendo in grembo una pistola di dotazione della marina, che gli avevo regalato alla partenza e che per ispirazione della provvidenza o per qualche idea stramba frullatagli nella testa tipica di lui, o altrimenti per una sua saggezza istintiva, aveva deciso di lasciare scarica. Fu così che risalì il fiume Patusan. Nulla sarebbe potuto essere più prosaico e più insicuro, più bizzarramente casuale, più solitario. Strano questo suo destino, che proietta su tutti i suoi atti l'ombra della fuga, dell'abbandono impulsivo e improvviso, del salto nell'ignoto. È proprio la casualità di tutto ciò che mi colpisce più di ogni altra cosa. Né Stein né io avevamo un'idea chiara di quello che potesse trovarsi dall'altra parte, quando, metaforicamente parlando, lo sollevammo e lo scaraventammo al di là del muro senza tante cerimonie. In quel momento volevo solo vederlo sparire. Stein, invece, come suo tratto caratteristico, aveva un motivo sentimentale. Era sua intenzione ripagare, immagino in natura, il vecchio debito che non aveva mai dimenticato. In realtà, per tutta la sua vita, aveva sempre manifestato grande cordialità nei confronti di chiunque provenisse dalle isole britanniche. Il suo defunto benefattore, è vero, era scozzese, al punto che si chiamava Alexander McNeil. Sentivo che Jim non doveva essere influenzato da alcuna considerazione di vantaggio personale. Su questo non si poteva correre il minimo rischio. Dovevamo trattare un altro tipo di realtà. Aveva bisogno di un rifugio. Questo e niente altro dovevamo offrirgli, a qualunque costo. Ricordo, mentre gli esponevo il nostro prezioso piano per il suo ritiro dal mondo, come alla sua caparbia, ma stanca rassegnazione, fossero subentrati gradualmente sorpresa, interesse, meraviglia, fanciullesco entusiasmo. Questa era l'opportunità che sognava. Non riusciva a pensare come fosse riuscito a meritarsi la mia... Gli venisse un accidente se capiva che cosa doveva... Ed era Stein, il mercante Stein, che... Ma naturalmente ero io che lui doveva... Le interruppe. Quello che diceva era confuso. E la sua gratitudine mi causava un inesplicabile dolore. In realtà non c'era nessuno che meritasse i suoi ringraziamenti. Stein trasferiva a un giovane l'aiuto che aveva ricevuto quando era giovane lui, e io non avevo fatto altro che buttar lì il suo nome. A ciò egli arrossì, e rigirando un pezzetto di carta fra le dita osservò timidamente che avevo sempre avuto fiducia in lui. Ammisi che era vero, e aggiunsi, dopo una pausa, che mi sarebbe piaciuto che lui riuscisse a seguire il mio esempio. «Lei crede di no?» chiese imbarazzato, e osservò con un sussurro che prima comunque avrebbe dovuto dar qualche prova del suo valore. Quindi, illuminandosi e alzando la voce, dichiarò che non mi avrebbe dato motivo di pentirmi della mia fiducia, che aveva ricominciato a rendersi l'esistenza intollerabile. «Crede?» mi domandò turbato, ma subito dopo aggiunse in tono confidenziale. «Mi stavo comportando bene, però, non è vero?» Naturalmente non aveva nulla contro i luoghi selvaggi e primitivi. «Ne sono lieto», disse, «perché era proprio in un posto del genere che sarebbe andato. Comunque mi arrischiai a promettere che l'avrebbe trovato abbastanza animato». «Sì, sì», disse con entusiasmo. Aveva manifestato il desiderio, continuai inflessibile, di escludersi dal mondo e di dare un taglio netto. «Davvero?» interruppe in uno strano accesso di cupezza che parve avvilupparlo dalla testa ai piedi come l'ombra di una nuvola di passaggio. Dopotutto faceva trasparire le sue aspirazioni in modo straordinariamente espressivo. «Straordinariamente. Davvero?» ripetei con amarezza. «Non può dire che abbia insistito molto per questa soluzione. E potevo anche continuare a fare quello che facevo. Ma lei, accidenti, lei mi indica una via». «Benissimo. Allora si accomodi. La porta è aperta», intervenni io. Potevo promettergli solennemente che quella porta si sarebbe richiusa inesorabilmente alle sue spalle. Una volta entrato, sarebbe stato cancellato dal mondo come se non fosse mai esistito. Non avrebbe avuto altro che le proprie gambe su cui reggersi, ma prima avrebbe dovuto trovare un terreno che non gli crollasse sotto. «Mai esistito. Ecco, per Giove», mormorò fra sé. Gli occhi, che erano incollati alle mie labbra, gli splendettero. Conclusi che se aveva compreso perfettamente le condizioni, avrebbe fatto meglio a balzare sul primo Gary disponibile e ad andare alla casa di Stein per le istruzioni finali. Si precipitò fuori dalla stanza prima che avesse finito di parlare. Thank you.